Parliamo della musica o delle performance, diciamo, su palchi che finiscono in tribunale. L'ultima notizia in questo senso riguarda Blanco e la sua esibizione a Sanremo, dove ha distrutto il giardino di rose. La notizia di ieri è che la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo a suo carico indagando per danneggiamento dopo un esposto del Codacons. Per parlarne siamo al telefono con il sociologo Matteo Bortolini, che saluto, buongiorno. Ciao, ciao. Alessandra. Allora, che impressione ti ha fatto questa notizia? Innanzitutto vorrei dire una cosa, che se vogliamo di performance e tribunali, il vero caso terrificante di questi giorni mi pare il caso dei P38, che è un pochino più grave di quello di Blanco. Se vogliamo partire da Blanco, però, la cosa che pensavo stamattina leggendo il giornale era che non dobbiamo in nessun modo derubricare questa situazione come un semplice teatrino, no? Ho sentito commenti che dicevano sì, il Codacons ormai fa solamente questo genere di boutade mediale, in realtà è una sciocchezza, eccetera eccetera. A me sembra che la cifra principale di questa storia, in particolare di Sanremo, poi avrei anche una cosa un po' più generale, è questa: Sanremo non è lo specchio del paese. Sanremo, mi sembra di più, questa denuncia mi sembra proprio come una specie di ricordo di questo, no? È come se ci dicessero: guardate che Sanremo non è lo specchio del paese, le cose che si fanno a Sanremo non si possono fare fuori da Sanremo, come una specie di punirne uno per educarne 100 di cara memoria, no? Perché? Perché quello che sta succedendo, e a me piace molto vedere la contraddizione fra la famosa stola della Ferragni, pensati libera, quindi si dice che ognuno di noi deve essere se stesso, che si deve pensare libero, che deve praticare la sua differenza, la sua queritudine e tutto il resto, poi però se dai due calci a due rose vieni denunciato. Questo cosa ti dice? Ti dice che hai due messaggi molto contraddittori, oppure, ancora peggio, una situazione di totale illeggibilità del messaggio. Vale a dire, tu devi essere te stesso, però fino a quando non raggiungi un limite oltre il quale vieni denunciato, menato, sbeffeggiato, eccetera. E qual è questo limite? Non te lo diciamo. Quindi diventa contemporaneamente una enorme libertà, ma senza una regola, senza una norma, senza una capacità di capire qual è il punto in cui ti puoi spingere o non ti puoi spingere. Quindi è un'illusione di assoluta libertà, e anzi che viene spinta un po' da mass media, da queste figure così terrificanti tipo la Ferragni, poi però una libertà che, insomma, quando tocchi il punto giusto ti viene tolta, però il punto giusto non sai mai qual è. Quindi è una situazione, dico, illeggibile, perché tu non hai più la capacità di prevedere cosa va bene e cosa no. In questo caso tu hai una performance artistica e la performance artistica diventa un crimine. A proposito di illeggibilità, in questo paese abbiamo un problema col simbolico? È certo che abbiamo un problema col simbolico, perché da una parte c'è questa trasfigurazione per cui tutto diventa narrazione, tutto diventa storia, tutto diventa simbolo, tutto diventa immagine, così quasi come se la realtà non esistesse. Ma dall'altra parte esiste, e dal mio punto di vista è infinitamente più pericoloso, il contrario, e l'abbiamo visto nell'ondata di repressione di questi ultimi 2-3 mesi. Cioè adesso anche solo uno slogan, anche solo un manichino diventa un atto di violenza, anche solo il testo di una canzone diventa un atto di violenza, anche solo una performance diventa un atto di violenza, anche se nessuna persona viene in nessun modo colpita fisicamente, voglio dire, e se tutto si mantiene a un livello di simbolico, nel senso di manifestare, esprimere un'opinione, che può essere un'opinione dura, che può essere un'opinione conflittuale, ma rimane un'opinione conflittuale. Cioè, voglio dire, prova a pensare alla scala, no, di, fra virgolette, della violenza. Io posso tirare un cartone in faccia a qualcuno, posso tirare una martellata a un vetro, posso fare un manichino e appendere la testa in giù. Se noi perdiamo la differenza che c'è fra questi atti, e abbiamo completamente perso la differenza fra il simbolico come modalità di espressione e la realtà di una violenza che viene esercitata sulle persone. Su questa involuzione ti faccio una domanda, mettendotela giù in modo, se vogliamo, ironico. Per canzoni come Il Bombarolo di André sarebbe finito al 41 bis. Adesso forse al 41 bis no, però tu capisci che, appunto, tu scrivi una canzone di quel genere che ha un messaggio politico forte, ma è una canzone, e tutto passa attraverso questa figura che andrebbe veramente studiata, che è quella dell'esempio. Cioè, Blanco non doveva calciare le rose non solo perché ha distrutto le rose, quindi ha provocato un danno materiale, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, ma anche perché è un cattivo esempio. Anche qua, per riprendere ancora De André, no? Tu fai una canzone sul bombarolo e sei un cattivo esempio. P38 fanno una performance e sono un cattivo esempio. Non so, quando io ero un ragazzo c'erano Disciplinata, sarebbero stati un cattivo esempio, ok? Cattivo esempio, come se esistessero milioni, non so, di dementi decerebrati che, se Blanco tira due calci alle rose, vanno a uccidere la vecchietta della porta accanto, hai capito? Cioè, questo meccanismo per cui chiunque è libero di fare quel che vuole, ma in realtà no, viene mediato, questa è la mia ipotesi, da questa figura dell'esempio. Tu potresti fare tutto quello che vuoi, ma non devi farla perché saresti un esempio, perché gli altri non capiscono che se canti una canzone che si chiama Il Bombarolo, loro vanno a mettere una bomba davvero. Fai un manichino di melone appeso, vanno a uccidere Meloni. Ma quando mai? Di cosa stiamo parlando? Tra l'altro, una delle cose che discutevo con qualche mio amico in questi giorni, e loro dicevano: ma guarda che questo tipo di denunce, questo tipo di processi ci sono sempre stati. Certo, ci sono sempre stati, ma in una società come quella degli anni 60 e 70, che era infinitamente più conformista della nostra, ci stavano anche. Qui tu hai veramente quello che si chiamerebbe un doppio legame, no? Cioè un'ingiunzione da una parte e contemporaneamente l'ingiunzione opposta, di modo che alla fine tu rimani totalmente basito in mezzo alle due alternative. Io ti ringrazio. Grazie a voi e ciao, buon lavoro.